La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. A metà dell'Ottocento viene rappresentata per la prima volta La Traviata di Giuseppe Verdi, tratta dal lavoro teatrale di Alexandre Dumas figlio. Protagonista della Traviata è Violetta Valéry, questa mondana d'alto bordo, ma sarebbe più giusto chiamarla fille de joie, intraducibile in italiano, comunque ragazza di gioia, perché lei, con spensieratezza toccante, vive di feste, brindisi, finti amori, poi incontra Alfredo e scopre una cosa che non conosceva prima, come canterà lei stessa, essere amata amando. E così lascia i ricchi amanti per vivere con Alfredo. Quando sul più bello arriva il padre di lui, il signor de Germont, e all'insaputa di Alfredo la convince a lasciarlo per il suo bene, per non rovinare lui e la famiglia con questa relazione scandalosa. Ma non soltanto a lasciarlo, molto peggio. Il vecchio Germont la convince a farsi odiare da lui, fingendo di averlo tradito, e lei accetta. Quindi fa finta di preferirgli un altro amante, Alfredo la tratta con disprezzo, le getterà in faccia dei soldi, ma Violetta è già molto malata. Nel terzo atto morirà di tubercolosi fra le braccia di Alfredo, che intanto ha saputo tutto, ha capito il sacrificio, la ama disperatamente a dispetto di tutti, adesso che è troppo tardi. Questa è la storia. Proverei però a entrarci dentro. Violetta canta sempre è strano, davanti all'amore, davanti alla truffa e alla morte, Violetta non sa dire altro. Il suo fascino è nella stupidità. Alfredo, innamorato di lei, si preoccupa degli stravizi nei quali vive. Così vi ucciderete. Ah, se mia foste, io veglierei sui vostri soavi dì. Attenta, Violetta, l'assassino si pone come guaritore e infermiere. Come pegno d'amore, Violetta dà ad Alfredo un fiore da riportare, gli dice, quando sarà appassito. La prima galanteria già prefigura la morte. L'imprudenza le beatifica, povera Violetta. Perché simpatica è simpatica. Se non altro per confronto, qui non si salva nessuno. Solo lei che si perde. Nell'atto secondo, Alfredo la redenta. Ovvero l'ha convinta a lasciare tutti gli amanti, a vivere con lui, e da 3 mesi vivono in campagna a spese di Violetta. Ma lui non se n'è accorto. Quando coglie la cameriera Nannina, che sta andando a Parigi per mettere in vendita i beni della sua padrona, Alfredo se ne meraviglia moltissimo. Cade dalle nuvole, si offende. Che mai sento? Ma è poco sveglio questo ragazzo, eh. Mai ci aveva pensato, mai si è chiesto come potessero tenere i cavalli e una vita, sebbene ritirata, insomma, sontuosa. Perché bisogna dire che se Violetta è un po' leggera di mente, anche Alfredo non è una cima. E quando si abbandona all'inno all'amore trionfante, è un inno alla noia, che si affaccia inconfondibile fra una parola e l'altra. Insomma, Violetta si sta avviando a diventare molto noiosa. C'è una confessione in queste parole di sazietà completa. Dei miei bollenti spiriti, il giovanile ardore, ella templò col placido sorriso dell'amore. Templò vuol dire spense. Cosa si può aspettare una donna perduta che diventa fedele, se non il gigantesco sbadiglio che spinge sotto un treno Anna Karenina come una pedata? Lo stesso che incenerisce l'amante arresa e la mondana innamorata. A questo punto lei e Alfredo si annoiano e finirebbero davvero male. Ma per fortuna c'è un colpo di scena. Madonicella Valerie, d'Alfredo il padre me vedete, se dell'incauto che a ruina corre, ammaliato da voi. La guardiana del faro. Madonicella Valori, sono io. D'Alfredo il padre in me vedete. Se dell'incauto che a ruina corre, ammaliato da voi. Arriva il padre di lui, il signor de Germont. Il signor de Germont non ha finito di entrare in casa senza bussare, che già le rinfaccia d'essere la mantenuta del figlio. Ah no, caro signore, questo proprio no, semmai il contrario. E per quanto d'animo nobile e un po' distratta, Violetta gli squaderna sotto gli occhi le carte che provano come lei sia rovinata e stia per vendere tutto, per amore di Alfredo. A questo punto Germont diventa più rispettoso. Già i modi di lei lo avevano un po' calmato, dice qua i modi, ma anzi non si riprende dallo stupore che costei sia così garbata. Ma come credeva che fosse una fille de joie, una maleducata come lui, che rompe in casa d'altri a far piazzate? Il vecchio diavolo scorre le carte e si convince che è vero e lei a pagare. Bene, ora sa che Violetta non è come lui. Con una vera puttana pronta tutto per i soldi, cioè una della sua razza, userebbe qualche riguardo. Invece ha a che fare con una piccola idealista, dunque non avrà scrupoli. E le chiede niente di meno che di lasciare Alfredo e di rendersi odiosa a lui simulando il tradimento. E le spiega anche perché. Perché sua figlia, come dice lui, pura siccome un angelo, si deve sposare. Lei, che è sporca come uno spazzacamino, si deve annientare per quel giglio. Se Alfredo non torna a casa, dice Germont, troncando la relazione scandalosa, il matrimonio andrà a monte. Ma chi è Germont? Germont è lo strumento del mito, il messaggero degli dèi che reca la fama. È un benefattore dell'amore, un solenne cupido che li preserva dalla fine giusto in tempo, trasformandoli in leggenda. E il suo fastidioso ritornello, Dio mi guidò, in fondo è vero. Non il Dio pomposo e furfante che egli crede, non il Dio banchiere, ma il Dio dell'amore, il Dio che disperde e afferra. Germont chiede il massimo sacrificio. Certo, la pretesa è alta, ma non si può dare meno della vita per l'immortalità. Germont la tenta, offrendole l'eroismo in cambio dell'amore. E Violetta ci casca, si lascia vincere dall'ambizione del martirio. È la vanità che sconfigge l'amore, non il sacrificio. Il letto non le basta più, vuole stare sull'altare. Ormai, davanti alla grandezza dell'olocausto, anche il matrimonio le sembra una povera cosa. Ma non è tutto, altro che Alfredo. È Germont che la seduce, riparando l'onore virile della famiglia. E dopo che lo spensierato di suo figlio le fa sentire il bastone del comando. Che uomo, un vero delinquente. Abituata ad Alfredo, mantenuto distratto, Violetta è fulminata dal capitalista di ferro, che non gliene risparmia una. Prevede che diventerà brutta, che il figlio si stuferà, che la maledirà. Sotto questa gragnuola di maledizioni, lei geme: è vero, è vero. Germont, pura siccome un angelo, iddio mi diede una figlia. Se Alfredo nega riedere in seno la famiglia, l'amato e amante giovine, cui sposa andar dovea, or si ricusa al vincolo. Oh, fermiamoci un attimo su questo interessante personaggino. L'amante e amato giovine, di cui non sappiamo il nome. Il fidanzato della fanciulla, pura siccome un angelo, che in barba tanta purezza mette delle condizioni. È lui il carnefice originario di Violetta, maniaco della purezza, ne è ingordo fino allo sterminio. Non gli basta quella di lei, la pretende perfino dal fratello, come se dovesse andare a letto pure con lui. Bel tipo di amante. Tutti pigmei, solo Violetta si chiede di essere santa. Violetta tranquillizza Germont. Ha un male incurabile. Sarà buona, morirà presto. Si tratta di aspettare appena un po'. Una grazia alla moribonda. Parole e musica, da smuovere un sasso. Ma Germont fa finta di non capire e con grande faccia tosta, pari solo alla sua retorica, «Bella voi siete, giovine, col tempo!» «Ma quale tempo? Se gli ha appena detto che il suo sta per scadere!» Eppure la proposta è totalmente oscena e per questo viene accolta. Avido Mefistofele, Germont vuole anima e corpo. Quell'altro, Alfredo, il debole, si vergognava anche a prendere qualche migliaio di scudi, faceva finta di niente. Ma Germont non si vergogna di niente. Ora è lui il giovane, lui l'amante, lui il grande aguzzino. Scena di seduzione spudorata. Sarebbe niente se richiedesse il corpo, davanti all'intimità cocente del martirio che le impone. Lo stupratore la piega con pretese assolute e la possiede tutta. Violetta accetta, sedotta, ma piange. Sadico trionfante, Germont, ora che il colpo è riuscito, non si tiene e prorompe. Piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, oh misera! E lei, qual figlia m'abbracciate? Forte così sarò. Cagnetta scodinzolante, povera schiava. Una scusa però ce l'ha. Sei innamorata di quel porco. E infine il premio. Germont la abbraccia. Il patto scellerato è concluso. Cornutissimo Alfredo. Ora gli amanti diabolici lo raggireranno. Gli faranno credere ciò che gli pare. E lui non arriverà certo a capirlo, povero ragazzo, perché non è da dire che l'intuizione lo soccorra al posto dell'intelligenza. Tutto alle spalle di Alfredo, il patto, che non vede, non immagina, non sente, sordo più di suo padre. Alfredo torna a casa dopo la visita di Germain, non incontra il padre, non sa che c'è stato e Violetta non glielo dice. Ed è rimasto indietro. Crede che Violetta e il padre debbano ancora conoscersi e le predice: «Dai, conosci mio padre», le dice: «Ti amerà in vederti». Ma no, sciocco. Lei amerà lui. Anzi, l'ha già amato. Alfredo non sa che l'incesto mistico è stato consumato. Ma il grido di Violetta lava tutto. Qui l'ironia cede alla commozione. Possibilità dell'amore. Il mirabile canto qui fa piangere sartine e intellettuali, eppure noi che facciamo tanto gli spiritosi. Alfredo crede immediatamente alla menzogna, non ha un dubbio. Conosce male Violetta e gli pare normale che lo abbia tradito da un momento all'altro col barone. E pensa solo alla vendetta, solo a sé, non all'amore. Alfredo pensa solo all'onore offeso, al dispetto. Mentre lei muore sull'altare, lui deve far vedere a tutti che non lo si mena per il naso. Per questo la insegue alla festa dove è andata col barone, le getta in faccia una borsa di denaro e la celebre frase: «Questa donna pagata io l'ho. Magari, sarebbe ora». Dopo l'oltraggio arriva il vecchio coccodrillo, Germain, causa di tutto, e si lagna che Alfredo sia un po' alterato. «Dov'è mio figlio? Più non lo vedo. In te più Alfredo trovar non so. Non ho. In te trovar non so». Lo credo, l'ha fatto a pezzi e in fin dei conti gli ha rubato la ragazza. Atto terzo. Violetta sta morendo. La sua via crucis a tempo di valzer è sul finire. Nel grande momento il suo talismano è una lettera che stringe al petto. Una lettera non di Alfredo. Una lettera di Germain che la ringrazia per aver mantenuto la parola, cioè di essersi fatta ammazzare, e le annunzia che Alfredo verrà da lei a chiedere perdono. Adesso sa tutto, ma anche lui verrà, Germain, e questa è la promessa. Alfredo ormai è l'uomo dello schermo, e naturalmente lui, il meno desiderato, ad arrivare per primo. Le parole di lei tradiscono l'urgenza di rivedere l'altro. Ma se tornando non m'hai salvato, a niuno in terra salvarmi è dato. Eccolo, arriva! È lui, il vero amante per cui si muore. Germain viene a godersi il finale. Violetta, voi, signor, non mi scordaste? E come potrebbe? L'ha uccisa, gli è cara. Il prezzo del paradiso: morire con un cretino e un ipocrita al fianco, che vegliano la sua agonia e hanno una gran voglia di spedirla. Cantano: «Vola, beati spiriti, e Dio ti chiama a sé», cioè su, che aspetti? Torna ineffabile e toccante nel finale il motivo di Violetta. Non ha capito niente, nella vita, nella morte. Fra i semplici, Dio la vorrà con sé, visto che nessun altro lo vuole. Thank you. La guardiana del faro. L'ultima volta che sono scesa dal faro sono andata a un matrimonio, un bellissimo matrimonio, di quelli dove gli sposi si vogliono bene. Però, devo dire, c'era un prete, il prete che ha officiato, che ha detto delle cose così vuote. C'erano questi due giovani, già con un bambino di un anno e mezzo, tutto vestito da ometto, che stava lì e creava già uno stato di grazia. E questo prete ha parlato soltanto del fatto che era tutto un dono di Dio e che noi siamo delle monnezze praticamente. E parlava della Chiesa che si espande in tutto il mondo, ma in termini non di cuore, in termini diciamo propagandistici. E devo dire, in questi momenti mi viene una rabbia, dico, ma perché tanti di questi preti sono inadatti sia alle cerimonie della gioia sia alle cerimonie del lutto? E particolarmente ti fanno arrabbiare ai funerali, quando non si studiano neanche una parola, una frase, proprio per la persona che è morta e per quelli che stanno lì a soffrire. Però poi, in questi momenti di rabbia, mi ricordo, non so, Don Andrea Gallo, oppure il mio amico Gianluca De Candia, che si è fatto prete giovanissimo. Queste persone mi obbligano al rispetto per quella parte della Chiesa che si ricorda del Vangelo. Ecco, Gianluca De Candia l'ho conosciuto perché è venuto a benedire la casa. Allora apro e vedo un chierichetto bellissimo, sembrava Gregory Peck. E allora guardo dietro pensando, ma adesso ci sarà il prete. E invece il prete era lui, vestito come un ragazzo normale. E allora gli ho detto, no, guardi, entri pure, accogliamo la sua benedizione, anche se siamo miscredenti. Però creda che io sono in grandissima polemica con la politica delle alte gerarchie ecclesiastiche. E allora lui è entrato, ha cominciato a parlare, e finalmente sento un sacerdote che dice delle parole vere, che non dice delle litanie, sulla bocca del quale la parola amore ha un senso. Poi, quando uscì, feci per dargli l'obolo, cioè si prepara un'offerta per la benedizione, e lui disse con molta cortesia, ma con molta fermezza, no, no, guardi, se vuole passi in parrocchia e li destini come crede. E io dico, ma è l'uso? E lui, sorridendo, ma è un uso molto villano, dal quale vorrei astenermi. Non posso associare la benedizione ai soldi. E tutto questo poi ritrovai nel suo primo libro, che si intitolava La vera amabilità del cristianesimo, sottotitolo Charme e stile di una fede postmoderna, dove appunto capiamo subito che in tutte le opere di Gianluca, opere umane, opere letterarie, non ci troviamo nel chiuso di una sacrestia, ma in un giardino fresco, con la brezza, con la musica. Nessuno ci minaccerà dall'inferno, ma ci farà scoprire il divino che abbiamo dentro, anche perché io sono particolarmente arrabbiata per questa tremenda, angusta, io direi veramente anticristiana educazione che mi è stata data, cattolica, dove tutto era peccato, tutto era colpa e Dio era sempre pronto col bastone. Invece Gianluca De Candia invoca uno stil novo, ovvero un eroismo sorridente. Mi disse, le prime volte che confessava, mi disse, mi dispiace una cosa, oggi hanno tutti dei fortissimi sensi di colpa, ma nessuno ha il senso del peccato. Per favore, è possibile dalla Capitaneria di Porto chiamare Gianluca De Candia a Giovinazzo? Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, Don Gianluca De Candia è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, Don Gianluca? Pronto, Barbara. Ciao. Ciao, senti, ho avuto anche il tuo ultimo libro, che si chiama Trinità. Una volta mi hai detto, mi prendono per uno psicanalista. Com'è questa storia? È proprio così. Io credo che ultimamente non è possibile non pensare alla sapienza che la scienza psicanalitica, Freud, a partire dal Novecento in poi, ha dato all'animo umano. Eppure ho l'impressione che la gran parte di noi sacerdoti, o comunque una bella quota, abbia quasi smarrito la percezione, la stima verso la cura d'anime, che vuol dire in fondo incastonare l'anima di ogni persona con delicatezza ed eleganza, senza imporre ideologie da trauma o da complesso. Il rischio grosso di noi preti è quello di fare gli psicanalisti a buon mercato. Evidentemente invece siamo chiamati a decifrare in ogni vita che si affaccia al porto della nostra piccola esperienza ecclesiale, a decifrare qual è il disegno nel rovescio del tappeto di una vita, senza fare lo psicanalista. Ed è anche una vera gioia quando qualcuno poi viene a capo di sé, dopo aver incontrato Dio nei sacramenti o nel dialogo con il prete, nel sacramento della riconciliazione. Io ricordo che il Cardinal Martini, in una bella meditazione sul sacramento della confessione, invitava a dipanare il tempo della confessione secondo tre ritmi: confessio laudis, confessio vitae e confessio peccati, che è un ritmo un po' difficile detto in latino, ma in realtà è molto bello e sapienziale. Confessio laudis: nonostante il sacramento richieda che ognuno vada lì a scaricare il fardello, la zavorra della propria vita, è bene anche terapeutico da un punto di vista spirituale, non psicanalitico, controbilanciare la tendenza dell'anima a fissarsi e fossilizzarsi sul male che ha commesso, cominciare a esordire con grande respiro, con la lode, perché ci sono 80% delle cose in una vita, anche se non le vediamo, che meritano di essere benedette. E poi confessio vitae: collocare quell'episodio biografico di male, di peccato, all'interno di tutto il paesaggio di una vita. Evidentemente, così facendo, con uno sguardo panoramico dall'alto, il peccato in qualche modo si riduce, si ridimensiona, resta con tutta la sua pregnanza, il suo graffio, per così dire, all'anima, al bene, eppure va ridimensionato. E poi confessio peccati. E quindi in qualche modo, ecco, si crea un ritmo, una cadenza musicale nell'anima che è in qualche modo sollevante, rincuorante. Ecco, il Cardinal Martini suggeriva questo sul piano pastorale. Chiaramente non dobbiamo riformulare assolutamente il sacramento in questa direzione, ma è un pizzico di questa sapienza, credo, che faccia bene a chi si accosti al sacramento della confessione. Senti, ma tu, che ti sei consacrato a questa missione, come te lo immagini Dio? Beh, su Dio si potrebbero dire tante cose. Io credo che c'è un rischio, che è quello di crearsi Dio dipingendolo con i colori della propria tavolozza sbiadita. C'è chi pensa a Dio come un poliziotto nascosto dietro la luna, chi come una mamma mastodontica che schiaccia i suoi piccoli, o chi come un osservatore romano che sta lì a indagare sui peccati della gente. C'è ancora, forse i più giovani immaginano Dio come una sfera amorfa, fluida, accogliente. Dio non è niente di tutto questo. Io vedo Dio così come il Cristo ce lo ha rivelato. È davvero la rivelazione di Gesù, l'immagine che Gesù ci ha portato di Dio, che è Padre, Abba, lui lo chiama, fuga e mette in sordina tutte le proiezioni che la nostra mente lancia verso lo schermo del cielo immaginandosi Dio. Io nell'ultimo libro, Trinità, le consonanze di un Dio musicale, dico proprio questo. In fondo, guardando alla vita trinitaria, il Dio cristiano non è un Dio monolitico, un masso granitico. E come si dice dal catechismo, per chi lo ricorda, Dio è uno e trino. Cioè il Dio cristiano è in sé differenziato, dialogico, è forza di riconoscere l'altro e di sapersi riconosciuto dall'altro. Ebbene, in questo senso possiamo dire che Dio, più che essere un intellettuale, o peggio ancora un sentimentale, forse sarebbe un Dio musicale, esperto delle relazioni tra vicinanza e distanza, tra unità e diversità, che non vuol dire unità, non vuol dire uniformità, ma invece che mondi diversi, prospettive diverse, il Padre, il Figlio e lo Spirito siano un'unica cosa, quasi un accordo musicale. Ecco, io parlerei piuttosto, alla luce anche di quanto dice la teologia sulla vita trinitaria, sul Dio che vive e respira in sé trinitariamente, io parlerei di un Dio musicale. Ecco, questo Dio è in fondo sinfonia tra verità e amore. Noi mortali purtroppo non riusciamo mai a sintonizzarci all'armonia del Dio trinitario. C'è tanta verità senza amore in questo mondo e tanto amore senza verità. C'è tanta verità senza amore e peggio ancora la pretesa malsana di aver ragione. Una verità senza amore si fa asserzione ideologica, correttezza politica, sentenziosità. La verità senza amore per noi si fa dura e friabile, mentre l'amore la renderebbe comunicabile, duttile, persuasiva. Eppure bisogna riconoscere che c'è anche tanto amore senza verità. Tante forme di effusione smidollata, di seduzione, di sequestro di persona a nome di affetti, amori di amici appiccicosi, di madri invadenti, abbracci di fidanzati che invece di carezzare soffocano. Ecco, la luce che scende a noi dalla Trinità, che è armonia tra vicinanza e distanza, fra unità e diversità, ci aiuta a dare un'incastonatura, uno stile alla fluidità della nostra vita e impariamo dalla Trinità cosa sia l'armonia tra verità e amore tra di noi. Secondo te, scusa, ti faccio una domanda proprio semplice, ma per applicare questo alla realtà, secondo te in questa forzatura di voler fare per forza questa alta velocità con la popolazione che tira i sassi, che non vuole, che rapporto hanno verità e amore con questo evento? C'è evidentemente in molte azioni dell'uomo moderno un atto di tracotanza che i greci chiamavano hubris. Io invece rispetterei, benedirei la contingenza, che attualmente è una delle categorie della vita che viene quanto mai violata. Di per sé già prendere un aereo e trovarsi in tempo reale da Bari, dove mi trovo io, a Roma in 50 minuti, chiaramente siamo tutti assuefatti a questo e non sono un antimoderno, assolutamente. Eppure credo non riflettiamo spesso su cosa voglia dire per noi uomini spostarsi da un orizzonte all'altro in così poco tempo. Il corpo arriva immediatamente, ma l'anima stenta ad arrivare. L'anima è ancora legata agli affetti, alle relazioni sociali, agli ambienti, alle immagini che ha lasciato alle spalle. Eppure si trova catapultata, in men che non si dica, in tutt'altra parte del mondo, senza parlare poi di viaggi astronomici sulla Luna o di viaggi in 10 ore da una parte all'altra del mondo. Per cui credo che ultimamente non riflettiamo abbastanza su come stiamo schiacciando l'acceleratore in tutti i sensi su queste possibilità della tecnica, senza ricordarci in fondo che siamo degli esseri precari e contingenti. Precario è diventata una parola oggi che va di moda e applicata al lavoro. Ma è applicata allo sfruttamento. È applicata allo sfruttamento. E forse potremmo anche tradurlo nuovamente questa parola in senso positivo. Precario viene dal latino precius e vuol dire ciò che è degno e bisognoso della preghiera. In fondo tutti noi siamo precari, precari sotto il sole, precari per la nostra vita e salute, precari per tutto. L'uomo moderno, e questo dell'esempio del treno è un esempio, in qualche modo cerca di fugare, di non vedere la precarietà della vita. E in questo senso credo è un'occasione questa del TAV, del treno ad alta velocità, per riflettere in qualche modo su dove stiamo andando e su come meniamo la nostra vita. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, ho 30 anni, bruttina graziosa, come mi definì mio padre senza accorgersi che ascoltavo. Per nascita abbastanza ricca. Mi sono innamorata di un ragazzo senza mezzi, bello, intelligente, che tutti, dalla famiglia agli amici, hanno subito bollato come arrampicatore e interessato. Non li ho ascoltati. E alla faccia loro abbiamo passato un anno di complicità, sesso, divertimento, fedeltà. Finché il mio buon umore ha vinto sui musi di mio padre, alla fine ha chiesto di conoscerlo. Ne è rimasto entusiasta. Ci ha regalato un viaggio a Bali. Per giorni abbiamo progettato il matrimonio, i figli. Poi abbiamo preso un fungo allucinogeno. Io ho provato un'intensa beatitudine. Gli stringevo la mano, chiudevo gli occhi e mi sembrava che io e lui fossimo l'eternità. Lui parlava da solo. Cominciava col dire quanto mi ama, poi mano a mano che il fungo gli fa effetto cambia registro. Si dimentica della mia presenza, si vanta di come è riuscito a intortare ben bene me e la mia famiglia, che è stato un capolavoro che il suocero stravede per lui, che ormai è fatta. Sì, lei, cioè io, è brutta, ma una volta sposati faccio quello che mi pare. Fa anche il nome di una donna, Fiore. Dice che appena finito il coprifuoco, cioè il tempo fino al matrimonio, potranno vedersi senza il terrore di essere scoperti. Poi si addormenta. Il giorno dopo non si ricordava niente. Gli ho riferito parola per parola la sua confessione. È caduto dalle nuvole. Gli ho detto che lo lasciavo, è scoppiato a piangere, dicendo che non si possono giudicare i sogni, che era un delirio, che spesso si rappresenta il proprio contrario quando la percezione è alterata. Siamo tornati. Lui fa il normale. Io provo un'avversione invincibile. Per me è rimasto quello del fungo. Che ne pensi? Camilla. Disgraziato. Cosa ne penso? Questo povero arrivista che scivola un istante prima del traguardo. Ora, se nel delirio diceva la verità, e rovinato questa sua cattedrale di bassezze per un fungo è un incauto e un cretino e quindi merita qualche compassione. Cioè, vorrei suggerirti, va congedato con qualche riguardo, senza ridergli troppo in faccia, come onestamente verrebbe da fare. Però senti, sarebbe una grande idea, il fungo, per tanti amanti e sposi. Cioè, tu non ti decidi a confessarmi che hai un altro? O che hai un'altra? Non ti decidi a dirmi la verità, che poi è evidente, che non mi ami più? Fungo! Menti per abitudine? Mi nascondi tutto? Doppio fungo! Così finalmente vuoti il sacco. Fine dei sospetti, degli sfibranti interrogatori, dei dubbi che rodono il cuore. Fungo, fungo, fungo. Se ci fosse in commercio, io credo che correremmo tutti a comprarlo. Ciao Barbara. Il mio grande amico è gay. I genitori cattolici arrabbiati lo tormentano cercando di curarlo. Lo hanno portato perfino da un fratone con la faccia da lestofante per l'imposizione delle mani. Anch'io sono gay, ma i miei esagerano nel senso opposto. Fanno i complici, vorrebbero le mie confidenze. Sono riservato pure coi coetanei. L'idea di avere questa intimità con loro mi fa ribrezzo. Li ho avvertiti che mi mettono in imbarazzo, ma loro sordi. Che fare, Tony? Tony, che fare? Una recita pedagogica. Una mattina a colazione, di punto in bianco, dici: papà, mamma, allora com'è andata stanotte? Forza, ditemi su. Poi aspetti la reazione, poi reciti a soggetto. Ma io mi chiedo, ma perché dovremmo essere complici dei nostri figli? Cos'è questa idea incestuosa della famiglia moderna di presiedere al sesso filiale? Io mi ricordo, ai miei tempi, tra le forme di controllo, lo stile poliziesco morbido è il più fastidioso. I tuoi genitori sono melenzi come confessori, sono morbosi come voyeur, ti annoiano e ti offendono. Ai miei tempi si faceva tutto di nascosto, perché erano dei poliziotti veri, erano proprio dei poliziotti carogne, dava gusto ingannarli. E poi almeno si faceva l'amore senza chiedere il permesso alla mamma. Cara Barbara, per me la storia con lui era un dogma. 5 anni insieme in una casa di 2 stanze senza mai un'insofferenza. Ma poi al lavoro c'era un collega, scherzavamo sempre. Un giorno ci siamo trovati abbracciati dietro la macchina delle bibite e non ci siamo staccati più. Improvvisamente la mia vita con l'altro mi è sembrata falsa. Ho deciso di andare a vivere da lui, ma come dirlo al mio convivente? Avevo paura delle scenate, delle pressioni. Alla fine ho parlato pensando di lasciarlo secco. Invece lui ci ha lasciato me. Capiva tutto. Ha pianto, ma non ha cercato di trattenermi. Mi guardava con amore e mi lasciava andare. Amo da morire il mio nuovo uomo, ma penso a lui, a come mi guardava quel giorno alla nostra casa, con una nostalgia che mi trovo con le lacrime senza sapere come. Sasha. Ah, come hai ragione, Sasha. Capito anche me in passato. Se quando te ne vai lasci qualcuno, lui non ti vomita addosso insulti, non diventa violento, non si mette di traverso, non minaccia il suicidio, non ti piglia schiaffi. Una quasi quasi si innamora andando via sulla porta. Questa cosa la perseguita poi. Tu, come tutti quando lasciano, ti aspettavi urla, ricatti, rinfacci, minacce. E invece lui sinceramente ti ha lasciato andare. Ti ama tanto da lasciarti andare. Hai fatto bene a tagliare, perché ai tempi del dogma tu credevi soltanto di muoverti, ma era come teatro. C'era questo fondale che ondeggiava e davanti questa vita non vissuta. Soffrirai per quest'uomo di nostalgia forse sempre. E purtroppo siamo costretti a scegliere. Il nostro modo di vivere è questo, la nostra civiltà è questa. Siamo costretti a scegliere negli affetti, ovvero a tagliare una fetta di noi. Io credo che sarete in 3 a lungo, perché niente è gratis. Oh, a proposito dei dogmi, però, devo dire, quella cosa che ripeto sempre, che le corna si mettono tutte nel posto di lavoro, quello sì che è un dogma. E il tuo caso lo conferma. Cara Barbara, sentissi come parla, te ne innamoreresti anche tu. È così che mi ha presa, oscurando tutte le storie passate come se non ci fossero mai state. Quando parla ti senti trasportata dove vuole lui. Fantasia, umorismo, crea dei mondi, gira dei film. Era come una radio che non avrei voluto spegnere mai. Col tempo, però, mi sono accorta che non sta zitto un minuto. Ora quella radio ogni tanto la vorrei spegnere o almeno abbassare, ma non c'è verso. La sera mi chiama, ho bisogno di te. Vado, beviamo una cosa e lui parla, parla, parla. A volte incidentalmente si fa l'amore, ma credo che abbia bisogno di me solo per l'ascolto. Maria. Si sa, Maria, che l'organo sessuale più ambito oggi è l'orecchio. È molto ambito anche dalle donne, ma i maschi ci battono. È la cosa che più desiderano di noi. Quando si dice, appunto, gli uomini vogliono solo quella cosa, si allude all'orecchio. Gli uomini vogliono un orecchio da ascolto. Quando loro erano intelligenti e noi oche, prima dell'imbarazzante ribaltone, ci tappavano la bocca con un bacio. Ecco, prova anche tu. E se proprio non funziona col bacio, è più sicuro lo scotch. Questa poesia l'ha scritta Marina Svetaeva nel 1935, dopo un viaggio in metropolitana a Parigi. Si intitola I lettori di giornali. Striscia il serpe sotterraneo, striscia, trasporta gente, e ciascuno con il suo giornale. Masticatori di mastici, lettori di giornali. Chi il lettore? Un vecchio? Un atleta? Un soldato? Nei lineamenti, nei visi, un foglio di giornale, di cui tutta Parigi, dalla fronte all'ombelico, è vestita. Lascia stare, ragazza, metterai al mondo un lettore di giornali. Dondolando, vive con la sorella, ruttano, ha ucciso suo padre. Si dondolano, il nulla si pompano dentro. Divoratori di vuoto, lettori di giornali. Di giornali leggi di calunnie. Di giornali leggi di sprechi. Ogni colonna una diffamazione. Ogni capoverso disgusto. Con cosa vi presenterete al giudizio universale? Arraffatori di minuti, lettori di giornali. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. Puoi lasciare il tuo messaggio nella bottiglia all'828 1111 o alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.